Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Carlo Hinterman, regista del film The Book of Vision, al cinema da giovedì 8 luglio 2021. Carlo, ben ritrovato. Ciao Federico, è un grande piacere. Per chi ci ascolta, che storia è questa? Volevo fare un film che si interrogasse un po' sul corpo e su come viene percepito e che ruota intorno a una protagonista che è una donna in un momento di difficoltà che si interroga proprio su che cosa significa la sua relazione col corpo, la relazione con la malattia e scopre nel passato, decide di abbandonare la sua carriera di medico per studiare la storia della medicina e scopre un medico nel Settecento che ha vissuto in un momento di passaggio proprio tra la medicina antica e la medicina moderna, quindi da una medicina animistica vicino ai pazienti, una medicina che aveva iniziato invece a indagare il corpo, e questo incontro con questo medico del passato rivoluziona la sua vita, tanto che il film è un vortice in cui le storie riverberano, i personaggi del presente, i personaggi del passato, e si intrecciano fino a diventare una cosa sola. Come era nato tutto? Il progetto è nato appunto in un momento in cui stavo studiando un libro per me importante, che è Il corpo della donna come luogo pubblico di Barbara Duden, che si interrogava proprio quanto sul corpo della donna ci sia un discorso sociale, soprattutto fatto dagli uomini, dove il corpo diventa una cosa pubblica, quindi quando si parla d'aborto, quando si parla di qualcosa che riguarda la donna proprio nell'intimo, tutti hanno un'opinione, no? E in questo libro riportava l'esempio appunto di un medico del Settecento per dimostrare quanto non fosse stato sempre così, tanto nel passato, piuttosto che avere un corpo, in fondo si era un corpo, nel senso che si raccontavano le sensazioni, quello che si pensava del proprio corpo, e quello diventava lo scambio del medico. Quindi da lì mi è venuta proprio l'idea di ragionare sulla femminilità in generale, sulla femminilità, sul fatto appunto di quanto la donna abbia il diritto di gestire il proprio corpo e di portarlo lontano dagli sguardi sociali, anche un po' morbosi, che spesso ci sono. E da lì poi alla fine è nato in realtà un film da amore, nel senso che è veramente un film sul fluire della vita e sull'importanza delle tracce che il passato lascia nel nostro presente, e quindi dopo è nato un film che si interrogava principalmente su questo, però il punto originale è stato questo libro. Il cambiamento si deve all'avvento in varie epoche e luoghi del patriarcato, immagino. Sì, il patriarcato unito al momento in cui con l'avvento dell'illuminismo c'è stato un po' un divorzio tra tutta una componente spirituale, animistica, di vicinanza anche con la natura che faceva parte proprio della società, era veramente intrecciata, era qualcosa che faceva parte della ritualità, e a un certo punto c'è stato questo divorzio che ha portato a estirpare per certi versi questa dimensione e quindi a concentrarsi nello specifico nella medicina proprio sul corpo come un territorio da indagare, aprire, iniziare la chirurgia, entrare dentro qualcosa che prima del confine della pelle non veniva quasi mai oltrepassato, e questa ha separato due dimensioni, anche quella per esempio della forza naturale femminile, proprio di una forza creativa che c'è sempre stata, cioè nel senso nella vicinanza alla natura di alcune ritualità c'è sempre stata questa spinta fortissima del femminile come qualcosa che dà origine a qualcosa. Ecco, il film si interroga un po' se sia possibile una nuova sintesi, se il futuro, che secondo me c'ha delle sfide interessantissime, possa finalmente tenere insieme due approcci, quindi da una parte uno veramente indirizzato al progresso tecnologico, nel film ci sono anche molti device medici del futuro, diciamo, robot chirurgici eccetera, e dall'altra parte invece recuperare questa consapevolezza di se stessi e del proprio corpo come qualcosa che si è perso nel tempo, delegando al medico tutto sostanzialmente, lasciando al medico che esprimesse un'opinione sul nostro corpo di fatto, no? Come se non lo sentissimo più. Ecco, a partire da questi spunti che ci hai dato, che registro narrativo hai scelto per affrontare il tema? Il tentativo è stato proprio quello di averci un flusso continuo in cui gli elementi del passato e del presente si mescolassero, per cui gli attori che sono Charles Dance, conosciuto per Game of Thrones, Lotte Verbeek, che è un'attrice che ha fatto Outlander, diverse serie, anche un bellissimo film che si chiama Not in Personal, Sverri Gudnason, Kerel Borg di Borg vs. McEnroe, e tutti interpretano un personaggio nel presente e un personaggio nel passato, e secondo me c'è un terzo personaggio che è la sintesi tra i personaggi del presente e del passato, così come c'è un terzo tempo che secondo me è la sintesi tra il tempo del passato e del presente. Quindi quello che ho cercato è che questo vortice arrivasse, e secondo me il cinema contemporaneo ti dà questa possibilità di arrivare a un tempo che è un po' un'immanenza del cinema, cioè il fatto che il flash forward e il flashback non siano più delle incursioni in dei tempi alternativi, ma che ci sia un tempo in cui tutto viene tenuto insieme, presente, passato e futuro. Quindi lo sforzo narrativo è stato proprio questo, di cercare di lasciare le tracce dei vari tempi come per giungere a un tempo nuovo che tenesse tutto insieme. Che distribuzione sarà? Esce con RS Production, che è il braccio distributivo di Rolling Stone, che ha iniziato a distribuire quest'anno, e ha scelto questo come primo titolo perché ci fa piacere, perché il film è abbastanza rock nel suo essere molto libero dal punto di vista narrativo, cercando di essere un percorso emotivo poi alla fine, e uscirà in tutta Italia. Qui siamo contenti perché insomma sarà un'uscita in molte sale. Noi saremmo dovuti uscire a novembre, poi ovviamente è successo quello che è successo. Adesso siamo molto contenti perché è un film nato per il cinema, perché abbiamo cercato veramente visivamente, dal punto di vista anche del lavoro che abbiamo fatto sul percorso dell'audio, eccetera, di fare un film eloquente per il cinema, e siamo contenti che finalmente arrivi in sala. The Book of Vision, il film al cinema da giovedì 8 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Hinterman. Un in bocca al lupo e alla prossima! Grazie, crepi o vive, a seconda di come si pensi. Alla prossima e in bocca al lupo pure a voi. Con la regista Michela Cescon per presentare il suo film Occhi Blu al cinema da giovedì 8 luglio 2021. Ben trovata. Ben trovati a voi. Come lo racconteresti in breve a chi ci ascolta? Occhi Blu, come dice il titolo, è un film sullo sguardo, su uno sguardo personale, su un'attrice iconica come Valeria Golino e su una città come Roma. È un film che sfiora il genere, sfiora un polar francese, gioca con tutte le pedine del genere, quindi ci sono due commissari, un francese e un romano, e c'è una rapinatrice. Come tutti i film di genere, è ricco di atmosfere, e gioca tantissimo su cercare malinconie, sensi di vuoto che poi si riempiono di immagine e anche di un animo romantico, che non vuol dire amore ma vuol dire nostalgie, uno spleen emotivo che i film di genere, soprattutto i polar francesi, portano sempre con sé. Com'era nato il progetto? Da un piccolo corto che feci 10 anni fa, di 7 minuti, che si chiamava Come un soffio, sempre con la Golino, che andò a Venezia e andò bene. E ci fu in generale attorno a me un incitamento a continuare. Ho continuato, ci ho messo un po', nel senso che l'idea era sempre di costruire un personaggio attorno a Valeria, ma da sempre avevo la sensazione di non partire da un film d'autore, ma di partire appunto da un gioco di genere, pensando che all'interno di quel gioco lì che io avrei potuto mettere uno sguardo personale. Sono convinta che il cinema in questo momento ha anche un po' di crisi, visto che siamo pieni di immagini, pieni di serialità. Non sono per niente contro la serialità, però insomma pieni di un altro modo di raccontare le storie. Il cinema, che ha un'ora e mezza di tempo, due, e invece ha bisogno di altri codici. E per così riportarlo forse con forza agli spettatori, il genere, quindi il musical, la commedia, il noir, aiuta a trovare qualcosa che ti ferma all'interno dei codici, dove tu poi dentro puoi giocare. E questo succede in Occhi Blu. Dall'inizio si capisce subito che sei dentro di un'atmosfera. Le prime immagini sono prepotenti. Se tu accetti di entrarci e di stare con me in quella cosa lì, secondo me ti puoi emozionare, ti puoi divertire, puoi portare a casa delle cose per te stesso. Cosa rappresenta per te Valeria Golino e i suoi occhi? Il film nasce attorno alla figura di Valeria per tante cose. Un po' perché è sempre stata con me dal primo cortometraggio con generosità lei è stata dentro al mio progetto, indipendentemente poi da che strada prendevo, e l'ho sempre sentita che poi sarebbe stata nel mio film. E poi perché avevo voglia di lavorare con lei, che reputo, oltre che una brava attrice, un'attrice particolare nel nostro panorama. Dico sempre che è una jazzista, Valeria. Il mio film ha un'anima jazz, perché è un'attrice che ha la possibilità di portare sempre una forma personale dentro ciò che tu le chiedi di fare. E come i jazzisti, no? Tu gli dai un canovaccio, gli dai delle note, gli dai uno spartito che neanche leggono e poi dentro a quello improvvisano. Lei è capace di fare quello. Nel film ci sono alcune scene che credo che possa fare solo lei. Lei parla pochissimo nel film, si dona totalmente, sono più io con la macchina da presa che vado a rubare qualcosa di lei, più che lei che ci viene a dare delle cose, ma ci dà tantissimo in realtà. E lo sguardo che ha Valeria, che conosciamo tutti tantissimo, in questo film è molto diverso, uno sguardo più duro, uno sguardo meno frontale, però con gli occhi così blu, sono un blu strano quelli di Valeria, sono un blu malinconico, sono un blu dove ci leggi tante di quelle cose. Mi piaceva usarli come proprio titolo del film, è sullo sguardo mio, quello sguardo blu, io non ho gli occhi blu, quello sguardo lì è lo sguardo che io do su Roma, sulle cose che vado a fotografare, e mi servo di Valeria. Ci hai parlato di polar francese, hai avuto dei riferimenti estetici? Ah, il film ha tanti riferimenti estetici, essendo poi un'opera prima, forse neanche troppi, perché comunque io non sono più una ragazzina, sono una donna di 50 anni, quindi chiaramente il film è pieno di tutto ciò che è stato di me in questi anni, quindi sia l'esperienza teatrale, sia l'esperienza cinematografica, sia come attrice che come spettatrice, sia tutto ciò che uno studia, di architettura, per esempio, che io amo molto, e quindi il film ha molti spazi importanti. Però, intanto per citare qualcosa, sono partito da Melville, il maestro del polar francese, e chiaramente dentro ci sono delle cose che ricordano un regista che amo molto, che è Mon Carvajal. Dentro poi c'è tanta graphic novel che mi piace, però la cito così perché sono un po' di moda dire sempre che c'è la graphic novel, no? Tutti dicono un film che riprende la graphic novel di questo, la graphic novel di quello. In realtà è una passione che ho da tanti anni e il modo di raccontare ricorda quella cosa lì. Soprattutto il film ha dei salti di storia, nel senso che spesso e volentieri non vengono raccontate delle cose, per creare negli spettatori una storia anche un po' personale, per andare veloci, per passare come fa spesso la graphic novel o il manga da una cosa all'altra. Loro fanno dei salti incredibili senza porsi dei problemi di rimanere dentro a delle cose tradizionali, e quello lo uso molto, ci metto dei capitoli per esempio, quindi quello assomiglia moltissimo alla graphic novel. Poi è un film che dico sempre, e mi fa piacere dirlo anche oggi in questa intervista radiofonica con voi, è un film dove io ho dato molta fiducia allo spettatore, io ho molta fiducia nella persona che viene a vedere il film, e volutamente ci sono tante cose non raccontate, non dette e non fatte vedere, perché è un po' un manifesto mio. Io sono convinta che appunto il cinema debba ritornare a essere l'immagine che non spiega tutto, cioè quando tu vedi un film è interessante anche quello che tu non vedi, cioè quello che il regista decide di non farti vedere. Quindi amo molto una regia anche prepotente di film, dove il regista con forza ti fa vedere il suo punto di vista, decide di mettere la macchina da presa in un certo punto, la macchina è molto presente, si sente, non è una macchina che prende qualsiasi cosa. Anche quello che appunto veramente decide di non farti vedere. Secondo me per il pubblico è interessante, perché lo spettatore è attivo. In queste prime visioni che abbiamo fatto in giro c'è addirittura qualcuno che sostiene delle cose opposte rispetto ad una scena, no? E questo è molto bello. Al di là di Valeria Golino, sulla scelta del cast parto da un esempio: Ivano De Matteo, che prima che regista è stato attore teatrale. Ci sono i tre attori principali, poi c'è un quarto che è Olivetti, sono Valeria, Jean-Hugues Anglade, un grandissimo attore francese, e Ivano De Matteo, tutti e tre registi. Jean-Hugues ha fatto un film solo, però sono tre compagni d'avventura con me, con cui ho già lavorato in altre cose, tra me con Jean-Hugues. Così, forse è stato anche un caso, però adesso che ci penso è bello che siano anche loro dei registi. Avevo bisogno di attori di quel tipo lì, cioè di attori che entrassero nel progetto, che è un progetto personale, un po' strano, ecco, senza chiedermi quelle domande che solitamente un attore fa perché magari non si sente sicuro dov'è. Il regista è difficile che ti chieda delle cose, il regista capisce e decide di stare nel mondo tuo, anche se non lo intuisce fino in fondo. Ivano, io ho fatto con lui l'ultimo film che ha fatto, che è Villetta con ospiti, e mi sono trovata bene, l'ho trovato un artista vero e quindi gli ho voluto fare un regalo. Lui ha accettato da 10 anni che non fa l'attore, quindi è un ritorno abbastanza importante, nel film è molto bravo. E spesso come lo riprendo, come mi avvicino a lui, è veramente così un omaggio a quello che lui è. E poi c'è Jean Hugo, c'è questa faccia stupenda di questo attore francese, mamma mia. In quante sale? Sai che non te lo so dire, però più se 44, 45, un numero di questo tipo, il film è pronto da diversi mesi, quindi la scelta era di gettarlo subito, dico proprio gettarlo in piattaforma, come ormai facciamo con tanti prodotti, e che in effetti... Also perché io non è che sono una nostalgica, capisco benissimo che sono intraprese altre vie, però essendo un film veramente visivo, molto visivo, io comunque il lusso, ve lo dico, della sala me lo volevo prendere. Da questo l'uscita a Taormina, quindi con una prima uscita possibile a un festival, il primo di tutti, per la possibilità di non trovarmi poi affollata, perché il ritorno in sala in autunno sarà impossibile, nel senso che arriveranno tutti i maestri, quelli sì che vanno a Cannes, a Venezia, tutti gli americani, quindi proprio non c'era spazio, indipendentemente poi dal film più bello o meno bello, è proprio che non c'era spazio. Allora la decisione comunque di uscire in un periodo strano come questo estivo, io capisco che è difficile, con un ritorno in sala che noi continuiamo a dire tutti contenti che si sono riaperte le sale, si ritorna in sala, ma è un ritorno in sala difficile e doloroso, i numeri lo dicono. La gente fa fatica a tornare al cinema, siamo troppo abituati a vedere i prodotti in casa e quindi è una scommessa difficile, ma su cui io non è che voglio vincere o perdere, voglio andare in sala perché mi fa piacere che quel tot di persone che desiderano comunque poter provare a vedere un film in sala lo possano fare, poi il film va da solo, prenderà le vie che prendono gli altri film, insomma. Il film Occhi Blu al cinema da giovedì 8 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla regista Michela Cescon. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie, auguro a tutti di vedere il film. Mi fa piacere se poi qualcuno ha qualcosa da dirmi, mi trovano in faccia nelle cose, che mi dica delle cose, mi fa piacere. Anche brutte. Con il regista Davide Ferrario per presentare il suo film The Voice al cinema da giovedì 1 luglio 2021. Ben trovato. Grazie, ben ritrovati anche voi. Che racconto è questo? È un racconto semplice di 4 giovanotti degli anni 70 che avevano una rock band come ce n'erano tante allora, che hanno avuto il loro momento di successo come tanti allora, e che poi hanno preso la strada della normalità come tanti, meno uno che invece è il frontman, quello più dotato, quello più consapevole della forza della musica, invece con l'arrivo degli anni 80, come tanti in effetti anche lui purtroppo si perde per strada, muore, si suicida, ma lascia un testamento sostanzialmente, dice, no, la band deve continuare nonostante tutto, prendete mio fratello e andate avanti, e ci ritroviamo così ad oggi, dove questi gruppo di sessantenni che sono Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi e Neri Marco Re continuano a suonare il loro rock anni 70 e il destino però gli mette sulla strada un'imprevedibile possibilità di tornare a essere famosi per una cosa che non spoilereremo e risolvere una serie di problemi che c'hanno, perché con l'età arrivano i problemi, arrivano i guai fisici, arrivano il fatto di essere nonni o diventare padri per la prima volta, i soldi che mancano eccetera eccetera, e quindi i nostri possono tornare a essere famosi, ma c'è un prezzo da pagare, lo pagheranno? Questa è la domanda che si risolverà alla fine del film. Com'è nata l'idea? È curioso che un film che si chiama Boys, che sostanzialmente parla di vecchi, sono la stessa età mia, sono, infatti Boys è sicuramente un bel titolo perché rispecchia perfettamente persone come me che anagraficamente ormai sono nella terza età, ma che tutto sommato dentro non si sentono di essere invecchiati, che è un bene e un male insieme, sia chiara questa cosa qua. Ma insomma, dico, questa storia qui è venuta in mente una donna, Cristiana Mainardi, l'autrice del soggetto, co-sceneggiatrice del film e anche co-produttrice del film, che credo si sia guardata un po' intorno e una volta tanto abbia rovesciato il solito punto di vista maschile che guarda le donne, invece abbia guardato i suoi amici maschi e abbia cominciato a costruire una cosa che mi ha portato, poi con la quale ho messo dentro un po' anche del mio, ed eccoci qua, insomma. È un film che sostanzialmente è una storia di amicizia più che una storia di musica, anche se la musica c'è un ruolo assolutamente fondamentale. E la scelta di questi interpreti? Guarda, come tutti i cast si parte in una maniera, ci sono dei tour, poi ci sono condizioni casuali, impegni, poi c'è stata la pandemia, pur confesso che il cast originale non era questo, ma siamo stati estremamente fortunati alla fine a mettere insieme una cosa veramente imprevedibile come questa qua, cioè perché uno dice che c'entra Marco Paolini, che tutti conosciamo per il suo impegno teatrale, non solo, con Giovanni Storti, un comico tutto tondo, e invece funziona incredibilmente, ma incredibilmente, ma neanche tanto, in realtà quando c'hai lavori con delle persone in gamba, come erano tutti gli attori di questo cast, che rispettano il campo d'azione dell'altro, poi vengono fuori delle contaminazioni, delle ibridazioni veramente sorprendenti. Io non mi sono mai divertito così tanto a fare un film come questo, nonostante lavorassimo con i guai del lockdown, perché c'era un clima da gita scolastica dall'inizio alla fine. Ogni mattina era difficile dare il ciak, ma non perché ci avessimo problemi, ma perché quelli prima del ciak cominciavano a fare gli imbecilli ed era davvero un clima di grandissima collaborazione, proprio quasi di ritorno al passato, ecco. Quando c'hai voglia di stare insieme, c'entra anche davvero un po' forse questa roba della pandemia, che lavorare insieme in una cosa mentre il mondo intorno a te è sostanzialmente fermo è una grandissima terapia. E comunque sono interpreti che praticano musica anche nella loro vita. Due sono dei veri musicisti, Neri Marco Re ci fa anche gli spettacoli in teatro apertamente, Giorgio Tirabassi è un eccellente chitarrista e un appassionato bluesman di suo, c'era da sistemare altri due strumenti che erano la batteria e le tastiere. Molto sorprendentemente, quando abbiamo fatto la prima riunione sulla distribuzione delle parti, Giovanni si è fatto avanti e dice: ma no, la batteria la suono io, ma sai suonare? No, dice: io so suonare la tromba, perché lui si è diplomato con la tromba, però capite che la tromba dentro un gruppo rock era abbastanza difficile da mettere. Infatti volevamo sviluppare una gag che poi non abbiamo fatto, l'idea che questo, il batterista volesse prima o poi mettere la tromba in una composizione del gruppo, ma non glielo fanno mai fare per 40 anni. E comunque no, Giovanni si è messo lì e è andato a studiare batteria, naturalmente non per diventare un virtuoso, ma abbastanza da essere un dignitoso Ringo Starr della situazione. E Paolini spesso canta nei suoi spettacoli, usa molto la musica, ma qui l'abbiamo messo a fare le tastiere, che sono da una parte lo strumento tecnicamente più difficile, ma anche quello forse più facile da usare in playback, e quindi questo è il nostro gruppo, che però devo dire, quando facevano le prove insieme, cioè proprio si divertivano, mi convocavano continuamente, a un certo punto volevano osare anche suonare davvero loro. Li ho fermati un attimo prima. Che sguardo è il tuo su questi rimasti ragazzi? Qualcuno usa il termine nostalgia, io dico, la nostalgia può essere di due tipi, c'è una nostalgia del rimpianto, che è quella brutta, cioè quella che ti dice: ah, come erano belli quei tempi andati, non torneranno più, la la la la, eccetera. E c'è una nostalgia invece un po' più produttiva, che è quella di misurare onestamente la distanza che intercorre tra il prima e il dopo, e dargli un valore. E c'è una battuta che dice un personaggio del film a un certo punto, mentre si dibatte tra passato e presente, sul fatto che ogni generazione crea i suoi miti, c'è la sua musica, quindi perché quelli di prima devono essere meglio di quelli di adesso? Però c'è un fatto, dice: voi avete Jimi Hendrix, noi abbiamo X Factor. Quella è un dato di fatto reale, cioè chi è cresciuto negli anni 70 ha vissuto un momento straordinariamente felice, e quindi devi dare un senso a quella felicità, ma non per dire che non torna più o che tutto è diventato peggio, ma per usarla per cambiare il presente, insomma, immaginate un futuro nuovo. In quante sale? Credo un centinaio. Per una volta non sono produttore io del film, come è capitato negli ultimi 20 anni, sono felice di non dovermi occupare anche di tutti i guai economici della distribuzione. Ha una distribuzione nazionale e poi insomma il cast è importante, quindi anche facile, chiamiamolo così, presentazione commerciale. Il film The Boys al cinema da giovedì 1 luglio 2021, un saluto e un ringraziamento al regista Davide Ferrario. Non dimenticate la colonna sonora di Mauro Pagani, che quella è davvero una chicca straordinaria. Pezzi scritti da Mauro Pagani alla fine degli anni 70, quando lasciò la PFM prima di suonare con De André, e che non aveva toccato per 40 anni, che ha ritirato fuori e ricostruito per noi. Un valore sicuramente. Assolutamente. Un abbraccio Davide. Grazie a voi. La drammaturga e regista Patrizia Schiavo sul suo film Enayat, l'incredibile storia. Liberamente tratto dal libro Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enayatollah Akbari di Fabio Geda. On demand su teatrocittà.it. Patrizia, ben trovata. Grazie, grazie Federico, grazie. Siamo alle prese con questa grande odissea, sia perché la storia è una vera e propria odissea, un'odissea del 2000, sempre attualissima purtroppo, e sia perché è stata un'esperienza faticosa e travagliata anche per noi. Un bel esperimento per non arrenderci alla chiusura, e un bel esperimento per trovare, ecco, nuove strade per raggiungere anche un nuovo pubblico, perché è una storia che merita di essere raccontata e ha molto da insegnare. Io trovo che ci sia un potere di trasformazione fantastico, sia personale che collettivo, all'interno di questa storia. C'è una frase che viene attribuita alla mamma di Enayat, che sintetizza un po' il valore di trasformazione che è contenuto in questa storia. Un desiderio bisogna sempre averlo davanti agli occhi, come un asino la carota, perché è nel tentativo di soddisfare i nostri desideri che troviamo la forza di rialzarci. E se un desiderio, qualunque sia, lo si tiene in alto, a una spanna dalla fronte, allora di vivere varrà sempre la pena. Questa frase di Fabio, tratta da Nel mare ci sono i coccodrilli, per me sintetizza un po' il valore di trasformazione, no? Non che ho preferito, figlio mio, saperti in pericolo lontano da me, ma in viaggio verso un futuro differente, piuttosto che saperti in pericolo vicino a me, ma nel fango della paura di sempre. Ecco, qui no, viene racchiuso il senso di queste vite che abbandonano tutto andando incontro ad un ignoto che comunque è sempre preferibile alla violenza, alla miseria che li circonda, no? Noi non ci rendiamo conto perché viviamo in un paese controverso, pieno di criticità, però per i tanti come Enayat continua ad essere la terra promessa. E la storia di Enayat è la storia anche di tutti quelli che purtroppo non sono arrivati a raccontarla, che continuano a morire nel Mediterraneo alla ricerca di un luogo da chiamare casa. Trovo molto poetico, Enayatollah dice: io mi fermerò quando troverò un luogo da chiamare casa. Il suo sogno era quello di continuare a studiare, di trovare un luogo dove gli fosse permesso continuare a studiare, e infatti poi lui arriva a Torino, riesce a laurearsi, adesso si è sposato con una ragazza di Nava, perché poi nel frattempo è riuscito a tornare in Afghanistan dopo mille peripezie. Quindi è un inno alla vita, la sua storia per fortuna ha un finale positivo, ecco, però insomma dovrebbe aiutarci a riflettere sull'indifferenza che ormai ci circonda, no? Nei confronti dei continui sbarchi di gommoni tipati di esseri umani stremati, no? O addirittura della intolleranza nei confronti di questa moltitudine che continua a fuggire da guerre, persecuzioni, fame, negazione dei diritti umani essenziali come quello dell'istruzione, insomma. Quindi siamo molto contenti di aver trovato questa strada di resilienza da un lato e aver trovato anche la forza organizzativa, economica, in un momento non facile, di arrivare a questo progetto. Al di là della presentazione c'è qualche data pubblica di fruizione? Noi abbiamo creato una nostra piattaforma on demand, principalmente per rivolgerci all'innumerevole pubblico delle scuole secondarie, perché questo romanzo dal 2010 in poi è praticamente adottato stabilmente dalle scuole. Quindi l'idea nasceva da questo, perché noi abbiamo realizzato la versione teatrale il giorno prima del Covid, praticamente abbiamo debuttato e ci siamo fermati lì, quindi avevamo una serie di contatti con le scuole romane che abbiamo annullato. Quindi dopo qualche mese di dubbio da parte mia abbiamo iniziato a ragionare su possibili strade alternative, no? Per okay, continuare a rivolgerci ad un pubblico. Io non ho mai creduto nel teatro in streaming e continuo a non crederci, nel senso che il teatro non è storicizzabile, no? Avviene nel qui ed ora, coinvolge il pubblico che ne fruisce in quel preciso momento, e il cinema invece sì. Quindi da un lato è sorto il bisogno di lasciare anche un segno del tempo che stavamo vivendo, curiosamente attraverso una storia che è perennemente purtroppo attuale. Quindi raccontare una storia forte, necessaria, in un momento in cui il Covid ci ha impedito il rapporto con il pubblico. Quindi cercare una nuova vicinanza, ma non attraverso un teatro filmato, attraverso un esperimento, un avvicinamento al cinema, chiamiamolo. Tutto il progetto è stato realizzato all'interno di Teatro Città, il nostro spazio chiuso. Nasce anche, appunto, come ti dicevo, cercare una nuova vicinanza con il pubblico, ma soprattutto arrivare dove il teatro non arriva. L'appuntamento del 6 e del 7 è nato per creare un po' un focus sul progetto. Mi faceva piacere l'idea, no, di portare Fabio e Denaiato là a Teatro Città, che è questo spazio che noi abbiamo preso, forse te ne avevo parlato quando siamo venuti in occasione del laboratorio della vagina anni fa, ma sì, stiamo parlando del 2018, è questo spazio che il comune ci ha dato, sebbene ci siano molte, molte controversie burocratiche, vabbè, ma insomma a Roma è così, e si trova alle spalle degli studi di Cinecittà. Siamo entrati in un progetto di riqualificazione socio-culturale, economica, urbanistica di questa area, di questo quartiere abbandonato, Piscine di Torre Staccata, un progetto interessante che era partito da Roma 3 e poi purtroppo, come tante cose a Roma, si è arenato. Nel frattempo noi abbiamo continuato a investire in tempo, energia, attività, formazione, con contest di danza contemporanea, spettacoli di impegno civile aperti alle giovani compagnie. Insomma, abbiamo cercato di lavorarci anche molto, di investire anche molto autonomamente, nonostante insomma ci fossero stati promessi soldi della comunità europea che poi non sono mai arrivati, si sono alternate 3-4 giunte, Marino appena eletto sindaco è venuto a farci complimenti dicendo che sarebbe diventato un progetto pilota per tutti i quartieri periferici della città, insomma tanti assessori ci hanno sostenuto, hanno creduto in questo presidio culturale periferico, però poi di fatto, come succede, dovrebbero essere i municipi a gestire direttamente la situazione, spazi, attività culturali, altrimenti non se ne esce. Il film Enayat, l'incredibile storia, liberamente tratto dal libro Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enayatollah Akbari di Fabio Geda. Con un doppio appuntamento a Roma, l'incontro con lo scrittore Fabio Geda ed Enayatollah Akbari il 6 luglio a Teatro Città a Roma e il 7 luglio al Cinema Eden, sempre a Roma, la proiezione del film. Un saluto e un ringraziamento alla drammaturga e regista Patrizia Schiavo. In bocca al lupo e a presto! A presto, ti aspetto volentieri, colgo l'occasione per ringraziare ovviamente tutto il cast che ha reso possibile questo progetto, la Persico Film, questa giovanissima società di produzione cinematografica, sono dei ragazzi veramente molto molto in gamba, Antonella Montesi in particolare che è una promoter nazionale che ci aiuterà a diffondere il progetto su tutto il territorio nazionale. E ti aspetto, Federico. La drammaturga e regista Patrizia Schiavo sul suo film Enayat, l'incredibile storia. Liberamente tratto dal libro Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enayatollah Akbari di Fabio Geda. On demand su teatrocittà.it. La regista Anna Maria Selini sul suo documentario Ritorno in apnea, al cinema da giovedì 12 luglio 2021. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come lo racconteresti in breve? È stata la mia esigenza di tornare a casa. Io sono giornalista bergamasca e quando a Bergamo è scoppiato il finimondo io ho sentito fortissima questa esigenza di andare e capire cosa stava succedendo e naturalmente raccontare. Come hai deciso, com'è nata l'idea di farne un documentario? È nata la notte in cui si sono viste, si sono diffuse le immagini, quelle che hanno fatto giro del mondo, cioè quelle dei mezzi militari che portavano via le vittime del Covid-19 da Bergamo, perché a Bergamo non c'era letteralmente più posto per cremarle. Io già da giorni stavo pensando di tornare, ma quella notte proprio ho deciso che basta, sarei partita. Com'è stata la tua ricerca? Come hai voluto impostare il documentario? Sicuramente, come per tutti i documentari, per tutti i lavori giornalistici, ho cominciato prima a raccogliere materiale, contatti, a cercare persone, insomma a informarmi. Dopodiché, una volta arrivata, ho cominciato a cercare queste persone, a contattarle, e devo dire che è stata l'unica volta in vita mia in cui ho avuto difficoltà da questo punto di vista, perché le persone erano talmente terrorizzate che non volevano uscire di casa, non volevano incontrarmi, non volevano essere intervistate, tutte mi proponevano di vederci su Skype, ma io naturalmente non potevo fare un documentario via Skype, e quindi ho avuto questa prima difficoltà che poi piano piano è scemata, e ho incontrato le persone, ho incontrato i sanitari, i familiari delle vittime, dei sopravvissuti e tante altre persone, insomma, che hanno raccontato quello che è successo a Bergamo in quei giorni durante la prima ondata. Che quadro d'insieme ne è venuto fuori? Quello su cui io, diciamo, mi sono focalizzata è stato il trauma, quello che gli psicologi hanno definito come un vero e proprio trauma collettivo, perché ha colpito un'intera comunità. Tutti i bergamaschi, io compresa, conoscevano o hanno avuto qualcuno che è stato pesantemente colpito dal virus. Io stessa, e questo è entrato anche nel documentario, ho avuto mio fratello che è stato contagiato, genitori di amici che purtroppo se ne sono andati. Tutti sono stati toccati in maniera, devo dire, abbastanza pesante da questo virus. Che impressioni ne hai ricavato alla fine di questo lavoro? È stato forse il lavoro più difficile che io abbia mai fatto, sicuramente perché lavorare su una cosa che ti tocca così da vicino, che tu affetti, tocca il tuo luogo d'origine, no? Che non avresti mai immaginato potesse diventare un'area di crisi, mi ha profondamente turbato, e quindi è stato un lavoro catartico. Quello che mi dicono le persone che lo vedono è la stessa cosa. Molti, sai, non hanno voglia, no? In questo momento di andare a vedere qualcosa sul Covid, ma alla fine mi ringraziano, perché forse proprio perché anche io ho fatto questo passaggio, mi dicono che stanno meglio dopo aver visto il documentario, mi dicono che si sentono compresi e raccontati, insomma, si sentono parte di una comunità, di una collettività. Considerato che ancora ci siamo dentro, com'è la situazione ora? Sicuramente rispetto alla prima ondata la situazione a Bergamo è migliore, anche se i dati sono elevati, i contagi, le terapie intensive sono ancora piene. Per un periodo venivano da fuori Bergamo, prima da Milano, durante la seconda ondata, ora è stata colpita molto violentemente Brescia, e quindi, come è successo anche ai bergamaschi che sono stati ospitati, no, in ospedali di altre province, ora è Bergamo che aiuta a ospitare i malati di altre province. Poi, come vediamo a livello nazionale, purtroppo la terza ondata è stata veramente molto pesante, ancora non stiamo uscendo, insomma. A livello nazionale e poi in Lombardia in particolare, non credi che ci sia un grosso problema di sanità pubblica? Sì, enorme, enorme. Usciamo dal Covid con un'idea completamente diversa, secondo me, della sanità pubblica. La sanità pubblica che è stata sempre presentata, no, quella lombarda in particolare, come una grande eccellenza, in realtà ancora oggi vediamo che ci sono grosse difficoltà. Poi gli ospedali hanno lavorato molto bene, ma come abbiamo visto è mancato il collegamento con il territorio. Questo si è rivelato fatale, no, soprattutto nella prima ondata. C'è da dire che si è imparato poco anche da quello che è successo nella prima ondata, che è successo a Bergamo, così come in altre province che sono state particolarmente colpite all'inizio. Ancora non si è risolto questo gap, no? Questo collegamento tra i grandi ospedali e la medicina del territorio. Secondo me bisogna lavorare molto lì, bisogna rafforzare tantissimo la medicina sul territorio e rivedere un po' in generale tutto quello che riguarda, insomma, la nostra organizzazione, perché ci sono regioni che hanno funzionato molto bene, stanno funzionando molto bene, altre no. Io ho intervistato un sacco di medici e molti medici parlano forse dell'esigenza di tornare a una sanità più centralizzata. Su che tipo di circuitazione state lavorando per il documentario? Covid ci ha disturbato e interrotto anche da questo punto di vista, perché noi volevamo partire naturalmente dai luoghi dove il documentario è stato girato e proiettarlo gratuitamente lì. Avevamo già pensato una proiezione a Nembro in Valseriana, così come ci stavamo muovendo su Roma. Purtroppo, come sappiamo, a ottobre hanno chiuso le sale, hanno chiuso i luoghi di aggregazione, quindi questa cosa è saltata. È stato proiettato in TV da TV 2000, esattamente il 18 marzo, che è la giornata che è stata dedicata alla memoria delle vittime del Covid, ma quello che noi vogliamo naturalmente è portarlo nel cinema. Ora ci sarà questa possibilità di vederlo online, però ci piacerebbe insomma portarlo lì proprio, no, dove la sua sede naturale, il cinema, e soprattutto che i cinema riaprano il prima possibile. C'è uno spazio web dedicato a questo lavoro? Potete trovare informazioni e anche il trailer sul sito del produttore, che è Alberto Valtellina. Un saluto e un ringraziamento alla regista Anna Maria Selini. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, viva il lupo. La regista Anna Maria Selini sul suo documentario Ritorno in apnea, al cinema da giovedì 12 luglio 2021. Con Chiara Valenti Omero, co-direttrice, per presentare la 22esima edizione dello Shorts International Film Festival a Trieste dal 1 al 10 luglio 2021. Chiara, ben trovata. Ben trovati a voi, grazie Federico. Per chi non lo conoscesse, raccontiamolo un po' questo festival. Beh, innanzitutto 22 anni, che non è poco, no. Effettivamente. Non è male, dai. Poi, insomma, passando per varie traversie, inclusa la pandemia dell'anno scorso, quindi, insomma, diciamo che però ci siamo, abbiamo resistito. Il festival da sempre offre il meglio della produzione cortometraggi internazionale e poi ha tante altre sezioni, la sezione Nuove Impronte, ad esempio, che da quest'anno è internazionale pure quella, è dedicata a lungometraggi che insomma non abbiano una grande visibilità, un po' di nicchia, insomma film di scoperta, e sono peraltro curati da Beatrice Fiorentino, che da quest'anno è affiancata da Massimo Causo, e poi la sezione per i bambini, per i ragazzi, la sezione Wari, insomma tantissimo cinema finalmente di nuovo in presenza con il pubblico davanti a noi. Quante opere saranno presentate? In tutto sono sicuramente più di 140 film, tra corti e lunghi. Abbiamo poi vari omaggi, abbiamo un omaggio alla Finlandia quest'anno, perché ogni anno cambiamo ovviamente paese. Quest'anno in collaborazione con il Tampere Film Festival abbiamo uno sguardo fino lassù. Poi ospitiamo una bellissima selezione dei corti EFA, quindi insomma anche lì il meglio del meglio. Siamo entrati nel circuito dell'European Film Academy, per cui ci fa molto piacere. E poi abbiamo il premio Prospettiva, che quest'anno è dato a Luca Zunic, quindi con Non odiare, con Mauro Mancini, che sarà anche lui qui con noi. Un omaggio Rewind a Giuseppe Maria Gaudino, insomma, per cui peraltro con un ritorno in pellicola a 35 mm, per cui spaziamo tra futuro, VR e pellicola. E il premio Cinema del Presente ad Alice Rohrwacher, che insomma non ha bisogno ovviamente di presentazioni. Quindi tantissimi film, 67 anteprime italiane in tutto, 44 paesi rappresentati solo nella sezione maremetraggio. E in presenza anche diversi autori e autrici. Sì, abbiamo molti registi che quest'anno, desiderosi evidentemente di riavere il contatto con il pubblico, hanno confermato la loro presenza a Trieste. Si ritorna due anni fa, ecco, sperando che vada tutto bene, perché insomma un po' di cautela ovviamente la dobbiamo sempre comunque mantenere. Come saranno strutturate le giornate? Dalle 8 in poi ci sono le proiezioni in due cinema diversi, uno al cinema Ariston, che ospita le nuove impronte, tutti gli eventi speciali, i pomeriggi con i bambini, perché abbiamo tre pomeriggi interamente dedicati a loro, mentre al cinema estivo Giardino Pubblico ci sarà la sezione maremetraggio, quindi insomma una location bellissima sotto le stelle, nel pieno centro della città, diversa dalla location del 2019, perché sempre per motivi legati alla pandemia che ancora non è terminata, il comune non ha potuto allestire quella piazza, però insomma torniamo al Giardino Pubblico, che ha visto il festival protagonista per più di 10 anni in passato, per cui ci fa piacere anche questo, ecco. Poi i pomeriggi dalle 18 in poi sono dedicati alla sezione Virtual Reality, per cui qui alla Casa del Cinema di Trieste allestiremo una sala proprio con 10 postazioni dove chi vuole può venire chiaramente su prenotazione a seguire, a indossare l'Oculus e a vedere i 13 corti che sono internazionali, anche quelli in VR, per un'immersione totale proprio. Ci dai tutti i riferimenti internet? www.maremetraggio.com, ci sono tutte le indicazioni sia per partecipare, peraltro c'è la 24 ore di fumetto anche, che sono due giornate interamente dedicate al fumetto e cinema, una sfida nella produzione proprio di un certo numero di tavole con un tema che verrà svelato all'inizio della 24 ore, per cui sabato 3 luglio. Ci sono ancora posti disponibili e a quella si può partecipare anche online, quindi comodamente da casa in qualsiasi luogo siate. Ecco, tutte le indicazioni le trovate sull'home page di Maremetraggio. Ricordiamo ancora che tutto il programma delle sezioni competitive, ma non solo, sarà riproposto anche online su mymovies.it, per cui se avete piacere, se avete voglia di seguirci e non siete a Trieste, non ve la sentite ancora di venire o avete altri impegni, lo potete fare anche comodamente dal vostro divano ancora da casa. 22esima edizione dello Shorts International Film Festival a Trieste dal 1 al 10 luglio 2021. Saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Chiara Valenti Omero. Un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, ciao, a presto. Con Mario Sesti per presentare l'ottava edizione di Cinema al Maxi dal 25 maggio al 21 luglio 2021. Mario, ben trovato. Grazie Federico, eccoci di nuovo finalmente. Con la riapertura quindi cambiano un po' le condizioni, raccontiamo questa ottava edizione. Vabbè, per forza di cose, non dipendenti dalla nostra volontà, si tratta di un'edizione molto particolare perché tradizionalmente Cinema al Maxi si faceva nei primi mesi dell'anno. Abbiamo scritto un po' più avanti nel sogno di poter contare sulle riaperture, cosa che è accaduto, e quindi la fantasia della storia vuole che Cinema al Maxi, Extra Doc e Video SF Film Festival saranno le prime manifestazioni di festival, eventi di cinema, che in città vedranno finalmente delle persone vere, dei corpi veri, in luoghi veri, incontrare immagini e suoni veri che scorrono sullo schermo, quindi niente zoom, niente streaming, niente online, no? Ma c'è la presenza proprio di persone che non conosci, che vedono insieme a te delle cose che chiamiamo film. Extra Doc, come sai per averlo seguito sin dall'inizio, è il festival dedicato specificamente al documentario italiano e, come negli altri anni, credo ancora di più, ne celebra la versatilità. Quindi ci sono immagini di Fellini, per esempio in Fellini Io sono un clown di Marco Spagnoli, che ricostruisce la storia di un famoso film di Fellini fatto addirittura prodotto in America. Finiamo con le immagini di Alida, un bellissimo documentario su Alida Valli che sono presentato alla Festa del Cinema e che viene presentato il giorno della premiazione, il 13 luglio. Il film, tra l'altro, a lei è dedicato il manifesto. Esatto, brava, esattamente, un'immagine che io trovo sublime, come lo era peraltro la biografia e anche lo stile di recitazione e la personalità di Alida Valli. Ci sta il cinema, ci sta la musica, con We Are the Thousand, l'incredibile storia di Rock in 1000 di Anita Rivaroli, che ricostruisce questa storia incredibile per cui 1000 persone a Cesena fanno lo stesso pezzo di Foo Fighting. I Foo Fighting rimangono a bocca aperta, decidono di andare a fare un concerto a Cesena e addirittura di organizzare per il mondo un tour con questa inedita, diciamo così, esecuzione da parte di amateur o semiprofessionisti o dilettanti delle loro opere. La musica è anche protagonista di Disco Lui, 40 anni di Club Culture italiana, di Lisa Bosi, Francesca Zerbetto, e in cui si va in queste cattedrali disarcionate, scoperchiate, che erano le grandi discoteche degli anni 80 e 90, per ricostruire anche uno stile, capacità di esprimerci, che è stato quello delle discoteche, per cui uno di giorno faceva quello che vuole, poi come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, la notte In discoteca ognuno poteva assumere le identità sociali, sessuali, diciamo immaginarie, che la musica e il loro e il dress code gli dettavano. C'è naturalmente l'arte, siamo al Maxi Confino di Walter Fasano, in cui Walter Fasano, che è una personalità molto particolare, è stato montatore di Luca Guadagnino di Detergento, ricostruisce la meteora di Pascali, Pino Pascali, che è stato un grande artista degli anni 60, e imitandone nel montaggio l'impaginazione euforica, il gesto estetico per così dire. Ma ci sono anche storie familiari, come L'occhio di vetro, un documentario per certi versi di impianto tradizionale, ma i cui esiti non lo sono affatto, visto che ricostruisce la storia di una famiglia, come credo sia capitato chissà quante famiglie italiane negli anni 40, in cui c'erano persone che hanno aderito al fascismo fino alla fine e altre invece che sin dall'inizio hanno lavorato per la resistenza. Ed è curioso vedere come poi all'interno della famiglia questi conflitti venissero negoziati e finissero per diventare anche forme in qualche maniera di inevitabile solidarietà e fratellanza reciproca. C'è anche un film che condividiamo con Alice, che parte dal storico Il mio corpo di Michele Pennetta, un documentario veramente bello in cui si parla dell'amicizia improbabile tra una famiglia di persone che vivono ai margini della società raccogliendo nelle discariche degli oggetti per poi rivenderli e un migrante che vive in una sacrestia. Ma c'è anche il teatro con Sant'Arcangelo Festival di Michele Bellari, Alessandro Rossi, che stava a Venezia. Sant'Arcangelo ha inventato in questo piccolo centro emiliano l'idea di coniugare un festival che si tiene in uno stesso posto, in uno stesso luogo, e invade, diciamo, in tutte le forme possibili, dal circo alla sperimentazione, la vita di uno stesso luogo per un certo periodo, no? E naturalmente c'è anche una giuria autorevole, a capo della quale ci sta Agostino Ferrente, che è un famoso autore, come sai, ma insomma è stato premiato in passato anche da noi, Esmeralda Calabria, che è una montatrice e anche una produttrice, Fulvia Caprara, che è una prestigiosa giornalista, un artista video che è Gea Casolaro, Birma Cosenza, che è stato direttore di Noti Quotidiani, ora è consulente di Italiale, e Sibilia è un famoso regista. Insomma, chiunque si muoverà da casa finalmente per andare a incontrare altre persone, per vedere scorrere immagini in movimento sullo schermo, così come succedeva, incontrerà al Maxi lo spettro, il fantasma di tutte le immagini possibili, che è un po' il luogo ideale in cui il documentario creativo, anche in Italia, ha tracciato il suo cantiere e il suo presidio. Ed è su questo che lavora sia Maxi che Fondazione Cinema, che insieme realizzano, come sai, Cinema e Maxi. Ultima, ma non ultima segnalazione, la seconda edizione del Video Essay Film Festival. Il Video Essay è questo nuovo genere che si è sviluppato soprattutto su YouTube e che mette insieme cattedratici, critici, appassionati, smanettoni, in cui in 5 minuti o in 10 o in 12 si parla e si analizzano le immagini di autori, attori amati, di generi, il noir, il poliziottesco, la commedia, il musical, ma anche Bergman, ma anche Lynch, ma anche attori molto popolari. Quest'anno Federico, che il 1971 lo distanzia di 50 anni, è stato l'anno del 1971 per l'appunto di Arancia Meccanica, quindi abbiamo alzato l'asticella in questa seconda edizione, abbiamo invitato a fare dei video essay per celebrare questo grande film di Stanley Kubrick, un film che ha segnato così profondamente l'età in cui si è svolto che lo stesso Kubrick, spaventato dagli esiti che il film produceva nella società, decise addirittura di ritirarlo, tant'è vero che il film si è ricominciato a vedere solo dopo la sua morte nei cinema e, pensate, né in Rai né in Mediaset è stato mai in onda. Quindi vale la pena, secondo me, di farsi un giro al Maxi, anche perché la prima parte si svolge nell'auditorium, la seconda, a partire da metà giugno, direttamente nella piazza del Maxi, quindi all'aperto, in uno dei luoghi a Flaminio, che è diventato peraltro un posto molto vivo, trafficato da bambini, da famiglie, da giovani alla ricerca di aperitivi, di intellettuali, da artisti, un posto in cui effettivamente si può vivere, diciamo, un festival con immagini così particolari, ecco. Se volete immaginare qualcosa che non avete mai visto prima e che scoprirete possa piacervi, credo che Cinema al Maxi, dal 25 maggio fino al 21 luglio, possa essere il luogo che possa soddisfare questo desiderio. Sono previsti anche momenti di incontro, chiaramente. Beh, ci sono degli incontri, anche perché sia la premiazione di Extra Doc il 13 luglio, sia il Video Essay Film Festival sono fatti in presenza. Quindi ci saranno gli stessi artisti che incontreranno, quasi tutti gli autori dei documentari accompagneranno le loro opere, ci saranno quindi anche disponibili a fare delle chiacchierate con gli spettatori che verranno a vedere il film, naturalmente. Tutti i riferimenti sul sito internet del Maxi. E anche quello di Fondazione Cinema, perché si svolge il Maxi, in realtà Fondazione Cinema è un'idea nata in fondazione, per me curata, e l'Ufficio Cinema è quello che materialmente, diciamo operativamente, ha selezionato, mi ha seguito e accompagnato nella realizzazione e progettazione di tutto Cinema Maxi. Ottava edizione di Cinema al Maxi dal 25 maggio al 21 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Mario Seppi. Un in bocca al lupo e a presto. A presto, grazie a tutti voi. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.